il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Giovedì 9 maggio, ad Arzerello di Piove di Sacco, presso il circolo di campagna Wigwam, si svolge il primo festival delle DOP venete, un'iniziativa che cade nel giorno, il 9 maggio di ogni anno, in cui si festeggia l'Unione Europea. Questi marchi, come il DOP e l'IGP, sono infatti dei marchi europei e sono regolamentati da normative comunitarie. Questa festa delle DOP è organizzata da Veneto Agricoltura, azienda speciale della Regione Veneto che si occupa appunto di agricoltura, con il patrocinio della stessa regione e la partecipazione di circa una ventina di consorzi a denominazione protetta. Per saperne di più di questa giornata e sul suo significato, abbiamo ospite oggi Paolo Pizzolato, commissario straordinario di Veneto Agricoltura, che innanzitutto ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi tutti, buongiorno e grazie anche ai radioascoltatori. Buongiorno, diamo un po' per scontato che la gente sappia che cos'è una DOP, una IGP, ma forse possiamo anche richiamarlo anche per capire qual è il senso di questa prima festa che riunisce un po' il fior fiore della produzione veneta. Certo, allora innanzitutto diciamo alla gente che queste DOP, IGP sono solamente iniziali praticamente, che possono significare solamente la bontà del prodotto. Ad esempio DOP di origine protetta vuol dire che sono praticamente prodotti che vengono garantiti con altissima qualità soprattutto a livello veneto. Perché dico a livello veneto? Il giorno 9 maggio, giustamente come ha detto lei, ci sarà un grande evento a livello europeo dove ogni singolo Stato manifesterà quelle che sono la bontà dei propri prodotti. Noi qui proprio abbiamo preso come specificità quello che è capace di fare Veneto Agricoltura, soprattutto col nostro sportello di Europe Direct, che è stato riconosciuto fra i 500 sportelli più importanti a livello europeo, per cui sono stati rinnovati i contratti addirittura di collaborazione fino al 2017, e permette anche a noi di poter garantire quello che sono la bontà dei prodotti sia a livello nazionale ma soprattutto a livello veneto. Nell'ambito di quella giornata cosa accadrà? Accadrà che proprio ad Arzerello, come lei ha ben specificato prima, ci sarà un evento straordinario che permetterà di promuovere tutti quelli che sono i prodotti più garantiti e più buoni a livello Veneto. Saranno presenti da 20 a 27 produttori che metteranno in campo quello che c'è di magico, proprio possiamo dirlo, a livello veneto. Perché dico questo con molto orgoglio? Voi sapete benissimo che Veneto Agricoltura, anche statisticamente parlando, si occupa di quello che sono i numeri a livello nazionale, oltre a essere l'ente sperimentale, il braccio operativo della Regione Veneto. Certo. In questo momento noi ci stiamo occupando soprattutto di capire a livello di specificità, a livello nazionale, cosa sta accadendo. Accade che il Veneto, ancora una volta, è una locomotiva trainante in quello che è l'attività del mondo rurale e del mondo dell'agricoltura. Soprattutto nel mondo vitivinicolo in questo momento il Veneto sta anche dettando legge, perché come sapete anche già nel 2011 i dati che abbiamo in mano hanno permesso di poter succlassare quelli che sono i prodotti dei nostri famosi cugini, non capisco perché li chiamano cugini francesi, dove il Prosecco, sapete che era succlassato lo champagne, per cui abbiamo vino buono a casa nostra, per cui i dati proprio sono di ampio conforto soprattutto in questo settore. Oltretutto settori rurali e settori agricoli, ripeto, soprattutto quello della viticoltura, dove tanti giovani stanno rivolgendo. Un più 7,8% in questo ultimo biennio vuol dire che tanti giovani, in un momento di debacle da parte del ramo commerciale, dell'artigianato, dell'industria, vedono nel mondo dell'agricoltura un qualcosa di nuovo che si sta aprendo e soprattutto una nuova fonte di reddito, di posti di lavoro. Senta, ma questi successi del comparto agricolo alimentare del Veneto sono dovuti alla bontà dei prodotti o anche alla capacità così di promuoverli, quindi anche a tutto questo aspetto a livello organizzativo, di marketing o tutto insieme? Guardate, io torno adesso da un convegno che si è tenuto proprio a Monselice relativamente a quello che è il prodotto zootecnico. Voi dovete sapere che, premesso appunto il discorso di prima della locomotiva trainante a livello veneto, posso ben dire che il Veneto ha una specificità rispetto a tante altre regioni. Non solo i prodotti sono buoni, ma i veneti hanno deciso di fare in maniera, per quanto possibile, di poterli certificare i limiti massimi proprio per cercare di garantire la bontà del prodotto. Cosa vuol dire certificarli? Vuol dire fare in maniera che quando arrivano sulle nelle nostre tavole, dopo essere stati immessi nella grande distribuzione, possono essere anche riconosciuti a livello di origine, praticamente da dove parte il prodotto, a livello di lavorazione e a livello di distribuzione. Nel momento esatto in cui il produttore veneto, l'agricoltore veneto decide di adempiere a quella che è questa filiera completamente chiusa, permette anche noi di poter garantire la bontà di quello che è il prodotto che arriva nel piatto, dal campo al piatto. Dal campo al piatto. Ecco, questo ci permette di dire che in questo momento la regione che sta ottemperando quello che è un'altissima qualità e specificità è soprattutto il Veneto. Voi dovete pensare che tante altre regioni a livello nazionale vengono da noi a attingere informazioni, a vedere come si fanno, come si chiude questo cerchio completo, e che soprattutto è fatto in collaborazione con le aziende private che chiedono proprio di noi. Benissimo, ci fermiamo per qualche secondo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. To both of you, did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shaking. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions coloring the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. Happens to be your thing. It's easy to say to both, oh, never mind. And get me waking up, shaking. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Nostro ospite oggi è Paolo Pizzolato, commissario straordinario di Veneto Agricoltura, e stiamo parlando di prodotti a marchio registrato europeo e del Festival delle DOP Venete che si terrà il 9 di maggio ad Arzerello di Piove di Sacco. Abbiamo citato prima il vino come un esempio dei prodotti d'élite. Quali altri sono i principali prodotti a marchio e anche non a marchio in realtà della nostra regione? Guardate, i cereali in questo momento stanno subendo un forte contraccolpo anche relativamente a quelle che sono le importazioni turche e anche le importazioni greche, però vi dico che l'agricoltura veneta in tutto il suo contesto sta veramente prendendo vita e anche prendendo un po' di fiato. Prima ho fatto l'esempio del mondo della zootecnia, il mondo della zootecnia stava subendo un contraccolpo non indifferente, nel Veneto invece si è voluto cercare di fare in maniera di poter ottemperare quello che erano le normative europee e si è deciso di produrre delle altissime qualità di carni, soprattutto di carni che vengono soprattutto preparate e lavorate a livello nazionale, a livello veneto. Perché dico questo con molto orgoglio? Tante volte francesi, canadesi, americani hanno importato da noi, perdonate il termine, però si chiamano così, delle vacche che praticamente erano prodotte, erano importate come fossero dei veri e propri campioni di carne a livello mondiale. Questa era una cosa invece che purtroppo a causa del loro marketing che è stato spietato nei nostri confronti permetteva ai nostri agricoltori di non capire qual era l'alta bontà del nostro prodotto invece interno. Un po' alla volta abbiamo cercato di incentivare queste proposte di pubblicità, di marketing, di marchi veri e propri veneti e ci siamo trovati con un mondo che stava andando a picco praticamente nel settore della zootecnia che ha invece rialzato la testa e che è riuscito a produrre marchi di altissima qualità proprio perché alla carne mancava solamente la certificazione di ampia qualità. Quindi le nostre mangi, le nostre vacche non sono più importate solo dalla Francia, dall'Olanda, da questi posti lì, ma sono anche autoctone adesso, diciamo. E iniziano a essere autoctone. Proprio in questo momento, io stavo tornando proprio dal convegno a Monselice tenuto da Zovec, una compartecipata di agricoltura che si occupa proprio di commercio di carne in proprio e dove effettivamente i dati sono stati veramente confortanti, perché in questo momento sia richieste da parte di privati, sia richieste da parte di grandi catene alimentari vanno anche rivolte non più in quelli che hanno prodotti diciamo oltre Alpe, ma iniziano anche a essere prodotti nostri nazionali anche veneti, proprio perché la gente sta cercando di fare in maniera abbastanza colta e istruita, un po' alla volta stiamo cercando anche noi di addentrarci all'interno delle scuole con prodotti di alta qualità però di cui si sappia effettivamente la provenienza. È assurdo ad esempio macellare una bestia in Romania, portarla in Italia e venderla come bestia italiana, capisce? Certo, quello che bisognerebbe fare sono maggiori controlli alle frontiere, perché effettivamente poi anche i nostri produttori, i nostri agricoltori ne risentono proprio di questo. Il famoso chilometro zero ha anche le sue giustificazioni. Senta, tornando un po' alla giornata del 9 maggio, perché abbiamo pochissimo tempo ancora, come si struttura? So che la mattina, lei ha citato le scuole, sarà proprio aperta alle scuole, ma non solo, e poi soprattutto il pomeriggio ci sarà la possibilità di visitare i stand di questi vari consorzi che saranno presenti, quindi di degustare, assaggiare insomma, i prodotti d'élite del territorio. Allora in questa giornata, in questo contesto all'interno del circolo Wigan praticamente verrà fatta una cosa di questo genere, premesso i saluti tradizionali delle autorità e cercheremo di fare in maniera con tutte le scuole. Sarà presente anche l'assessore, mi pare. Sarà presente anche l'assessore Manzato, l'amico Manzato sarà presente. Cercheremo di fare durante l'arco della mattinata anche un insegnamento strutturale all'interno di tutte le scuole che saranno presenti a livello elementare di quello che possa essere la bontà dei prodotti e soprattutto una ricerca ben specifica di come alimentarsi. I bambini, i ragazzi devono imparare cosa devono mangiare, innanzitutto soprattutto perché bene o male cerchiamo di contrastare anche noi quella famosa obesità che tante volte purtroppo caratterizza anche un attimo il nostro paese per alimentazione un po' diversificata. Nel corso della giornata ci saranno gli stand specifici dove potrà procedere praticamente all'assaggio di tutti questi ottimi prodotti. Durante il periodo pomeridiano invece ci saranno presenti le scuole medie superiori, anche vari istituti tipo anche l'agrario praticamente di Piove di Sacco, dove questi ragazzi invece potranno addirittura anche operare, cercare di attingere informazione da quelli che sono i produttori di questi prodotti che vengono proprio immessi nel mercato e che vengono pubblicizzati all'interno di questa giornata, per cui anche loro toccheranno con mano e andranno a capire come cercare di fare in maniera di diventare anche dei piccoli imprenditori anziché solamente degli studenti. Ci sarà anche anche dei momenti di approfondimento per operatori o comunque aperti alle persone. Diciamo anche che è ingresso libero questo festival. Questo è ingresso completamente libero, chiunque può partecipare, chiunque può istruirsi, le giornate sono completamente gratuite dove chiunque può logicamente accodarsi per cercare di imparare, ripeto, con questi professionisti che guideranno questa gente nell'ambito sia dell'alimentazione, dell'assaggio, ma soprattutto del riconoscimento dell'alta qualità veneta. Bene, allora invitiamo chi può venire ad Arzerello di Piove di Sacco nella campagna, tipica campagna veneta, il 9 maggio, la mattina dalle 10 o al pomeriggio fino alle 17-18 circa, a fare visita a questi stand dei consorzi dei prodotti più buoni del Veneto. Grazie della sua presenza. Grazie a voi tutti. Passiamo adesso ad alcune notizie. Scongiurato il rischio multe per le quote latte nella campagna 2012-2013. Secondo Coldiretti, la produzione nazionale dovrebbe rimanere sotto il fatidico tetto dei 10.883.000 tonnellate assegnato dall'Unione Europea all'Italia, oltre il quale limite scatta il cosiddetto splafonamento e le sanzioni conseguenti. Dopo le maggiori produzioni del primo trimestre della campagna lattiera, c'è stata infatti una lenta regressione dei livelli produttivi che ha avuto una decisa accelerata dal mese di dicembre. Il trend di calo è quindi proseguito anche a gennaio e febbraio di quest'anno. Se le regioni del centro-sud, assieme a Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, hanno garantito il contenimento della produzione, sono Lombardia, Piemonte e Trentino Alto Adige che, pur diminuendo la produzione, sarebbero ancora fuori dalla propria quota di produzione. Questa è la terz'ultima campagna lattiera in cui vige il regime delle quote che, secondo l'Unione Europea, sparirà nel 2015. Ha aperto il 30 aprile la prima bottega di Campagna Amica di Venezia. Si trova a Mestre, in Corso del Popolo 52. Luca Furlanetto, Stefano Ervas e Nico Piazza sono i tre agricoltori che gestiranno la bottega, che ha una particolarità: uno scaffale ad altezza di bambini, ricco di golosità, ma tutte provenienti dal mondo agricolo, senza conservanti né coloranti. Perché, come spiega Jacopo Giraldo, presidente di Coldiretti Venezia, è importantissimo che sin da piccoli si impari a guardare l'etichetta per capire l'origine di un prodotto e di quali nutrienti è costituito, per educare i nostri figli a diventare dei consumatori attenti. La presentazione della richiesta di sospensione delle coltivazioni di grano turco geneticamente modificato alla Commissione Europea, fatta dal Ministro della Sanità Renato Balduzzi su sollecitazione del Ministro Catania, è stato per la CIA, Confederazione Italiana Agricoltura, l'occasione per ribadire la posizione di netta contrarietà agli OGM. Un rifiuto condiviso da quasi 8 consumatori italiani su 10, che nasce dalla convinzione che l'introduzione di produzioni geneticamente modificate in Italia possa mettere a rischio seriamente la specificità e il valore aggiunto dell'agricoltura italiana, fatta di qualità, biodiversità e tipicità. CIA fa notare infatti che al crescente utilizzo di OGM nel mondo si associa una netta riduzione dell'uso delle varietà alimentari. Già oggi, a fronte di 7.000 varietà alimentari adatte all'uomo, solo 5 sono le più coltivate: riso, mais, soia, patate e grano. Nel mondo, intanto, le superfici coltivate OGM sono aumentate del 6%, arrivando a quota 170 milioni di ettari, e crescono soprattutto nei paesi emergenti, che ad oggi coltivano il 52% delle superfici, ovvero la maggior parte delle superfici OGM coltivate nel mondo. Al primo posto tra i produttori vi sono però gli Stati Uniti, che seminano circa 70 milioni di ettari, seguiti dai paesi dell'America Latina, in primis il Brasile e l'Argentina. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima, vi ricordiamo che ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.